il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. C'è una parola inglese molto interessante, underdog, e letteralmente sarebbe sotto al cane, è una parola della metà dell'Ottocento, quando voleva dire il cane battuto alle corse. Oggi underdog è il perdente, lo sfavorito, quello che probabilmente la competizione la perderà, quello su cui nessuno punta, nessuno scommette, quello che non ha speranze. A volte però partire sfavoriti può essere una risorsa. Ve lo faccio dire da un famoso giornalista e autore, Malcolm Gladwell. Il fatto di essere un perdente cambia le persone in modi che spesso non riusciamo a renderci conto. Apre porte, crea opportunità e illumina. E permette cose che altrimenti sarebbero sembrate impensabili. Ecco, oggi voglio parlarvi di un personaggio che alla nascita aveva tutte le caratteristiche del perdente, anche perché magari sia di stimolo a qualcuno, perché lui aveva tutto contro. Intanto nasce povero, con una famiglia disastrata, solo, con una serie di problemi fisici. Stiamo parlando di un uomo che ha fatto proprio del suo fisico l'arma del suo successo. Stiamo parlando di Sylvester Stallone. È difficile credere che il creatore di Rocky, di Rambo, di personaggi così fisici appunto, abbia avuto dei problemi proprio lì. La sua strada però è stata segnata da molte difficoltà, però anche dalla sua volontà incrollabile, la stessa volontà che torna nei suoi personaggi più famosi, che hanno sempre voglia di andare oltre i loro limiti, di sovvertire i pronostici, di stupire tutti, tagliando per primi contro ogni previsione il traguardo della vita. Nasce il 6 luglio del 46 a New York. Il padre Frank è un immigrato pugliese che sta arrangiandosi, facendo il barbiere. La madre Jackie ha delle lontane ascendenze russe, guadagna qualche soldo facendo l'astrologa, e forse negli astri aveva già previsto il successo del figlio. Certo, non può prevedere che la nascita del suo primogenito sarebbe avvenuta con così grandi difficoltà, perché a causa di una serie di complicazioni durante il parto, i medici utilizzano il forcipe per velocizzare l'uscita del bambino, e in quei tempi il forcipe veniva utilizzato un po' così, senza grande cognizione di causa. Insomma, gli danneggiano un nervo facciale, la parte inferiore del viso del bambino rimane paralizzata, bocca, lingua e mento. È questa la causa della caratteristica smorfia di Sylvester Stallone. Forse per compensare, il padre vorrebbe chiamare il figlio come uno degli attori più belli del momento, Tyrone Power. Tyrone Power era l'attore del momento, così quando nacque il bambino pensai che il suo nome doveva essere Tyrone Stallone, faceva una bella rima. E quando arrivarono quelli del certificato di nascita gli dissi Tyrone Stallone. Sì, in realtà volevano fare la rima, perché loro Tyrone dicono Tyrone, quindi Tyrone Stallone. E il desiderio di Jackie è quello di compensare almeno in parte le sfortune fisiche del figlio. Gli danno il nome di un uomo bellissimo, però questo non collima, insomma, con la voglia del marito, che vuole chiamare il primogenito con un nome di famiglia, Silvestro. Insomma, il bambino viene battezzato Sylvester Michael Gardenzio Stallone. Non un nome facile, come non è facile la sua infanzia. Vive a Hell's Kitchen, che è un sobborgo malfamato di Manhattan, senza l'acqua calda. A 4 anni la madre lo manda a scuola di tip tap perché ha i piedi piatti. La vita del ragazzo non è leggera, anche perché lì è tutto molto duro. Quando il padre decide di spostarsi con la famiglia a Washington, forse le cose migliorano un pochino, perché lui apre un salone da barbiere, ma migliorano non per lui, non per Sylvester, perché ha questa faccia con quel ghigno immobile, una faccia strana, ha difficoltà a parlare bene a causa della paresi, ha la S con la lisca, ha un fisico gracile, è insicuro, un nome ridicolo, insomma è il bersaglio dei bulli di tutto il quartiere. poi a casa i genitori litigano, cominciano le prime crisi. Dopo il trasferimento a Washington decidono di separarsi. All'inizio Sylvester rimane col padre, poi la madre trova un nuovo compagno, un nuovo lavoro, si sposta con lei Sylvester. Intanto il padre ha scoperto il culturismo, ha aperto una palestra per donne a Filadelfia, e con l'ennesimo trasferimento e cambio di scuola, cambierà 11 scuole Sly, si rifugia in un mondo fatto di fumetti in cui i supereroi sembrano vincere sulle difficoltà, ma lui trova sollievo soprattutto al cinema. Il suo mito è Steve Reeves, è un attore di film storici, di quelli ambientati nell'antichità, quei film che negli anni 50 piacevano molto, Maciste contro Sansone, La Valle degli Inferni, quelle robe lì, no? When I saw Steve Reeves... Quando vidi Steve Reeves affrontare l'esercito romano incatenato a due colonne, che riesce a tirare giù con la sua sola forza, fu una di quelle esperienze che ti cambiano la vita. Il giorno seguente andai in una discarica e iniziai a sollevare pezzi di automobili abbandonate. Quelli grossi, come le ruote e cose così. Insomma, come ha raccontato lui stesso, questo momento centrale della sua vita, il primo dei tanti colpi d'ala che poi la vita gli sottoporrà, gli proporrà. La sensazione è quella che con la forza e con la volontà sia possibile sovvertire la propria condizione. E lui sa fare tesoro di questo momento con tenacia, sa trasformare gli eventi e tutto quello che accadrà dopo. Dopo, nella sua vita, in qualche modo lo dimostrerà. Il falco e il gabbiano. E così Sylvester Stallone, ispirato dai film ambientati nell'antica Roma, comincia a frequentare la palestra, comincia a fare esercizi. È una delle sue poche soddisfazioni, visto che per il resto la sua vita è un disastro. Abbiamo già detto, cambia 11 scuole, viene mandato in un istituto per ragazzi difficili, viene salvato dallo sport, perché lì riscuote un certo successo, perché il suo fisico è molto cambiato, e con lo sport cresce anche il bisogno di migliorare se stesso, di costruire un nuovo Sylvester, come ci racconta un suo compagno di quei giorni. Sly aveva la lisca e iniziò a curare il suo difetto. Trascorreva ore ripetendo le parole dentro un ripostiglio. Ricordo che aveva questo piccolo registratore che continuava a riascoltare. Lo ascoltavo ripetere le stesse frasi giorno dopo giorno, riavvolgendo il nastro, e c'erano delle volte che restava a dormire da noi e avrei voluto strangolarlo. Mi teneva sveglio la notte. Dopo il liceo è un lungo peregrinare di fallimento in fallimento, di college in college, arriva perfino in una scuola in Svizzera, poi torna in America, va in Florida, frequenta dei corsi di recitazione, poi lascia l'università per tentare la fortuna e si trasferisce a New York, prova a recitare in giro. Nel frattempo fa quello che fanno tutti i giovani attori che vogliono sbarcare il lunario, lavori di poco conto, pulisce le gabbie dei leoni allo zoo, fa la maschera in un teatro, poi viene buttato fuori dal suo appartamento, si trova a vivere per 3 settimane per strada alla stazione di Pullman di New York. È così disperato che accetta perfino una parte in un film porno. Il titolo del film è The Party at the Kitty and Studs. La paga è $200 che gli permettono di trovare una stanza dove dormire. Naturalmente anni dopo, quando è diventato famoso, il film torna nel circuito del cinema porno con un nuovo titolo fiammante, The Italian Stallion. Poi l'anno dopo riesce a ottenere una piccola particina nel film Il dittatore dello Stato libero di Bananas di Woody Allen, e poi altre piccole apparizioni, e lui viene etichettato allo stesso modo, cioè fa sempre il ragazzaccio di strada, quello col giubbotto di pelle che attacca briga, è la parte giusta per lui in quel momento. Così anche il suo primo ruolo come protagonista è quello di un delinquentello, il film è del 74, The Lord of Flatbush, che in Italia, grazie ai traduttori, diventa Happy Days, la banda dei fiori di pesca. In realtà il film viene tradotto con il titolo di Happy Days anche perché nel film c'è Harry Winkler, l'indimenticabile Fonzie, che dice di dover molto a Stallone. We spent a lot of time together on the Lords of Flatbush. Trascorremmo molto tempo insieme durante le riprese di The Lord of Flatbush e lui aveva sempre quell'aria come di un tipo che se lo guardavi ti rispondeva a muso duro: ehi, che cavolo hai da fissarmi? Guarda che ti mangio a colazione. Così all'inizio, quando interpretai Fonzie, mi chiedevo sempre: chissà che cosa farebbe Sly in questa situazione? Che cosa farebbe? E in qualche modo la sua persona è stata di ispirazione per Fonzie. Help me form the Fonz. Con i soldi guadagnati sul set, lui può trasferirsi a Hollywood. E il problema è che adesso sono in due, perché nel frattempo si è sposato con Sasha. Siamo nel 74. Lui vuole continuare a far l'attore, vuole scalare qualche gradino della scala verso il successo. E intanto prova a scrivere sceneggiature. Nessuno gli dà credito, naturalmente, però ha molte idee per la testa. Ma lo sappiamo, basta un'idea per ribaltare tutta una vita. E la sua sta per avere un grande, un fondamentale colpo d'ala. Siamo nel 75, si ferma in un bar e guarda un incontro di pugilato in televisione. Lo scontro tra Muhammad Ali, il campione del mondo, il mitico Muhammad Ali, e un pugile che si chiama Chuck Wepner. Wepner è l'underdog per antonomasia, è dato per perdente, non ha nessuna chance contro il grande Ali. Muhammad Ali. L'incontro va avanti e questo Wepner stupisce il pubblico perché continua a incassare colpi ma non va mai al tappeto. A un certo punto riesce anche a far cadere Ali, che quasi non ci crede, si rialza, reagisce, massacra l'avversario, ma Wepner resiste fino in fondo, non va a terra, è saldo sulle gambe col volto pieno di sangue. Ali vincerà i punti, però senza gloria, e quella sera tutti gli applausi andranno a Wepner, al perdente, all'underdog. Bene, Stallone rimane folgorato da quell'incontro perché sente che Wepner è proprio come lui, è sottoposto ai colpi della vita ma non molla mai e non va al tappeto, e gli viene un'idea, è il colpo d'ala di Sylvester Stallone. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di un perdente, o così sembrava che fosse. È una storia di difficoltà, però questo perdente ha una grandissima volontà, una grande tenacia. È la storia di un underdog, cioè di quello che non ce la fa. E invece quest'uomo si chiama Sylvester Stallone, ha recitato in un film porno per poter mangiare, è a Hollywood, vuole dar vita al sogno di poter diventare un attore. Tutto sembra andare per il peggio. Poi assiste a questo incontro di boxe, addirittura si racconta che sia andato lì, ma a me piace pensarlo in un bar con i pugni infilati nel giubbotto, e l'incontro nel quale quest'altro perdente, Chuck Wepner, resiste ai pugni di Muhammad Ali. E insomma, da quel momento lui individua nel pugilato la storia possibile da raccontare, forse anche l'emblema del suo riscatto. Nasce un nuovo personaggio dalla sua mente, un personaggio destinato a fare storia. Quella notte nacque Rocky Balboa. Per la gente lui è l'espressione di una tragedia tutta americana. Un uomo senza una grande intelligenza e senza grandi buone maniere, ma con emozioni profonde, una sua spiritualità e tanto patriottismo. Di buona natura, anche se la natura non è stata particolarmente buona con lui. L'ho sempre immaginato come un gladiatore del XX secolo, con le scarpe da ginnastica. Come molti di noi, lui è fuori sincrono con i tempi. A tutto questo ho iniettato dosi della mia vita personale, della mia frustrazione per non arrivare da nessuna parte. Eh sì, è la frustrazione che guida Sly, Sylvester, che lo guida fino a casa, lo fa sedere al tavolo, gli fa scrivere con la rabbia, il fervore di chi non ha più niente da perdere, e scrive la sceneggiatura di una storia di rivincita. Ancora negli occhi le immagini che ha appena visto probabilmente in TV, e lui scrive per 3 giorni di fila senza smettere un attimo, pensando bene a quel perdente che prendeva i pugni e non cascava per terra. Ogni tanto si ferma a far rileggere qualche brano della sceneggiatura alla moglie, e fa ancora più tenerezza perché si suppone che lei fosse l'unica che in quel momento, forse per disperazione, credeva in lui. Poi termina la prima stesura, la porta a 2 producer con i quali era già in contatto. Si chiamano Irving Winkler e Robert Chartoff. Avevamo in mente di fare un film sul pugilato e lui ci disse che aveva in mente un grande film sul pugilato. Credo che anche se gli avessimo chiesto un film su uno morto e sepolto, ci avrebbe detto che aveva un'idea per un film su uno morto e sepolto. Perché era parecchio affamato a quel tempo. Non aveva una lira, viveva in un buco. Insomma, era dura per lui. E qui c'è il vero colpo d'ala, il colpo d'ala di quelli con le palle, perché questi si offrono di comprare la sceneggiatura di Rocky per $350,000. In quel momento Stallone, e questo è importante, ha neanche $100 in banca. È costretto a vendere il cane per $25 perché non ha i soldi per comprargli il cibo. A uno così offrono $350,000. Lui però vuole essere il protagonista del film, non solo lo sceneggiatore. La United Artists non ci sta, lui non molla. Bisogna essere veramente particolari per far così. I finanziatori ci dissero che volevano Burt Reynolds o Ryan O'Neill, che a quel tempo erano sulla cresta dell'onda. Avrebbero dovuto essere loro, di certo non Stallone. Ma noi dicemmo, no, aspettate, non è il nostro accordo, dobbiamo farlo con lui. Tutto sembra andare per il peggio, perché la United si tira fuori dal progetto. Winkler e Chartoff decidono di produrre il film da soli, si ipotecano le case, ma il budget è comunque risicatissimo, è $1,000,000, niente per quel mondo. E lo si vede da tante cose. Gli attori sono Talia Shire, che in realtà è quasi al debutto, è la sorella di Coppola, ma non è certo una grande attrice, è quella che interpreta la famosa Adriana, la fidanzata. Insomma, il set è misero, non ci sono soldi neanche per cambiare un cartellone uscito male. Nessuno sembra riporre grandi speranze nella riuscita del film. Alcuni della troupe sul set erano quasi imbarazzati, perché si dicevano: che diavolo, ma chi è questa gente con cui stiamo lavorando? E quindi a volte venivano dati i take e loro continuavano a parlare delle loro cose, a fare come se nulla fosse. Sembrava che nessuno sapesse davvero cosa stesse facendo, tranne Sylvester. Lui lo sapeva e continuò a mantenere questa fede nel film. E beh, bella sta storia qua, perché adesso arriva la parte piacevole. Rocky esce nel 76 e il film, che era costato $1,000,000 facendo indebitare tutti, lo sapete, diventa un'icona. Il personaggio di Rocky entra nella galleria degli uomini che si trasformano in eroi. Il più grande critico cinematografico americano, Roger Ebert, definisce Stallone il nuovo Marlon Brando, ma soprattutto quel $1,000,000 diventa $225,000,000 guadagnati, e vince l'Oscar come miglior film. E quell'anno c'erano in lizza film come Taxi Driver, Tutti gli uomini del presidente e Quinto potere, niente male. Ebbene, i producer, quelli che salgono sul palco quando bisogna ritirare la statuetta, portano con loro Sylvester Stallone, che commosso dedica il film a tutti i Rocky del mondo. And the winner is Rocky Irwin Winkler and Robert Chartoff, producers. Sylvester Stallone, I'd like to thank you for sharing your dream of Rocky with us and for giving a performance that has enriched all our lives. And to all the Rockies in the world, I love you. Thank you. Insomma, l'uomo che 2 anni prima aveva dovuto vendere il cane per sopravvivere si trova catapultato nello spazio, è diventato una star, è una stella del firmamento di Hollywood. Le porte si aprono tutte dopo il successo di Rocky. Ovviamente tutti, immagino, avranno detto: io ci ho sempre creduto, Rocky, eccetera eccetera. Sicuramente arrivano tanti amici e arrivano anche proposte di lavoro notevoli. Fist è un film di Norman Joseon dove Stallone fa una bellissima figura, e poi arrivano ovviamente i sequel, il sequel di Rocky. Anzi, Bruce Willis arriva a dire che Stallone è il vero inventore del sequel. Ha inventato il sequel, in pratica ha inventato tutto il business dei sequel. Ha preparato il terreno per un nuovo business che in pratica non esisteva prima. Stallone alla fine farà 7 film su Rocky, compreso Creed, Nato per combattere del 2015, e uno spin-off per il quale viene addirittura nominato per l'Oscar come miglior attore non protagonista e vince il Golden Globe nella stessa categoria. Ma dopo il grande successo di Rocky nei primi anni 80, lui torna a segnare un altro colpo d'ala clamoroso. È Rambo, il film sul veterano della guerra del Vietnam che viene incattivito dalle circostanze della vita, dalle ingiustizie, fin dall'82, con altre 3 pellicole dell'85, dell'88 e del 2008. E anche qui, insomma, stiamo parlando di un uomo solitario, sfavorito almeno in apparenza dalle circostanze della vita. La parte principale della personalità di Sly è abbastanza oscura. La gente pensa che i suoi personaggi brillino per ottimismo, ma in realtà per Sly è soprattutto il tramonto, la discesa e continuare a sprofondare. E questo è molto visibile nel suo lavoro, pieno di personaggi disfunzionali, svantaggiati. Poi ogni tanto Stallone cerca della leggerezza e forse anche dei dollari che ormai piovono da tutte le parti. Ci prova con 2 commedie, Oscar, un fidanzato per 2 figlie, Fermati o mamma spara, che lui considera il suo peggior film che abbia mai fatto, e mi sa che c'ha ragione. E la verità è che è difficile uscire fuori dal personaggio, l'underdog, quello che riesce a vincere la partita contro tutti i pronostici. Insomma, è impossibile quando poi sei uno che ha scritto Rocky e Rambo, ha sbancato al botteghino, però è stato relegato a un genere che forse col tempo lo ha schiacciato. Non ha avuto una vita facilissima, una vita privata, perché dalla prima moglie ha 2 figli maschi, il primo muore di infarto a 37 anni e al secondo, Sergio, viene diagnosticato l'autismo quando ha solo 3 anni. Quando scopri che tuo figlio è menomato per tutta la vita e che di nuovo devi confrontarti con un senso di impotenza, provi una grande rabbia. Mi sono sentito tradito da Dio. E anche se tutti dicono è il volere di Dio, è così che deve essere, ci rende più forti, io non ci credo proprio. Penso che ne usciamo indeboliti. La tua vita è distrutta e non capisco quale possa essere la lezione. Ma naturalmente Sly non è solo una montagna di muscoli, è anche una montagna caratterialmente. Divorzia dalla prima moglie e ha un matrimonio, insomma, sicuramente, come dire, un po' strano, quello con Brigitte Nielsen. Poi sposa un'altra modella, Jennifer Flavin, sicuramente dal carattere più tranquillo, e ha 3 figlie. Insomma, ha una bella famiglia, oggi ha 70 anni, è un uomo ricco, è una figura importante nel panorama cinematografico americano. Lo dimostra anche il successo del 2015, il successo di Creed, forse perché il suo motto è ancora racchiuso nella frase che Rocky dice a suo figlio, è il senso di un'esistenza, un po' dello Stallone pensiero. Nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò, andando avanti, non è importante come colpisci. L'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi. E se finisci al tappeto, hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. That's how winning is done.